strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Si è concluso ieri il Consumer Electronics Show, l'evento di Las Vegas che anche per il 2020, dal 7 al 10 gennaio, ha parlato il linguaggio delle tecnologie di avanguardia legate al mondo dell'auto. 4.500 gli espositori e più di 200.000 i visitatori, con molte anteprime connesse all'universo delle quattro ruote, protagonisti assoluti l'elettrico e la guida autonoma, con Hyundai, Audi, BMW, Mercedes e Nissan tra i principali attori. Immatricolazioni 2019, Audi è leader in Italia tra i marchi premium con circa 65.000 vetture immatricolate. L'Italia è il quinto mercato per volumi Audi al mondo grazie a vetture quali la A6, leader assoluta nel segmento, ma anche Q3, Q8 e la A4 Avant, la familiare premium più amata. La casa dei quattro anelli promette inoltre per il 2020 un'offensiva di prodotto con l'ampliamento delle gare elettrificate, l'evoluzione efficiente dei modelli Audi Sport. E a proposito di immatricolazioni, sono arrivati anche gli ultimi dati relativi al mese di dicembre. Vediamo come si è chiuso l'anno con questa scheda. Prima crescita a doppia cifra dell'anno. A dicembre, secondo i dati diffusi da Anfia, il mercato italiano dell'auto ha fatto registrare oltre 140.000 immatricolazioni, in crescita del 12,5% rispetto allo stesso mese del 2018. Una spinta forte che risolleva le sorti di un anno all'insegna della preoccupazione. Dopo il calo costante dei primi 9 mesi, da settembre il mercato ha restituito cifre più incoraggianti e il risultato nettamente positivo di dicembre ha permesso di chiudere il 2019 con una leggera crescita. I veicoli immatricolati nell'intero 2019 hanno superato il tetto del 1.900.000, in aumento dello 0,3% rispetto all'anno precedente. Nel 2019, inoltre, il diesel ha perso la sua leadership di mercato a favore della benzina, attestandosi a una quota di penetrazione attorno al 40% nei 12 mesi, contro il 51,2% del 2018. Arrivano da Autovie Venete le stime sul traffico e la circolazione del 2019 e alcuni dati sono quantomeno singolari. Su circa 200 km di tratti autostradali che si estendono tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, gestiti dalla concessionaria, solo nello scorso anno sono stati fronteggiati più di 18.000 eventi di intralcio alla circolazione, alcuni dei quali particolarmente pericolosi. È il caso, pensate, delle auto contromano che in uno spazio ed in un tempo così ristretti sono state ben 58. E spostiamoci all'estero. Oltre a ospitare con successo la produzione di costruttori stranieri come FCA, Renault, Ford, Toyota, Hyundai e Honda, la Turchia ha annunciato la nascita della propria casa automobilistica nazionale, TOG. La novità è più importante però che TOG è nata dal consorzio di 5 aziende locali direttamente sostenute dal governo che produrranno esclusivamente auto elettriche. Un piano industriale importante per la nuova realtà turca che si propone di lanciare ben 5 modelli nel corso del prossimo decennio. Per il momento, in un evento salutato con entusiasmo dallo stesso presidente Erdogan, sono stati presentati 2 prototipi, un SUV che entrerà in produzione nel 2022 e una berlina. Entrambi i modelli promettono alta tecnologia e prezzi competitivi. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di noleggio, di car sharing, di noleggio a breve termine, anzi in realtà in questo caso è una sorta di fusione fra questi due concetti tanto cari tra l'altro agli italiani, visto il successo che queste formule stanno avendo in Italia. Parliamo di un'esperienza che si chiama Pop Move e ne parliamo in compagnia dell'amministratore delegato Alberto Cassone. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Allora, cominciamo con questa strana formula, con questo intreccio fra un car sharing classico e un noleggio a breve termine. Di che cosa si tratta? Sì, Pop Move è un, noi lo definiamo uno short rent facile come un car sharing. È la possibilità di trovare la macchina che si desidera, quindi all'interno dell'applicazione è presente dalla City Car, una tradizionale smart, fino anche ad auto di lusso. Abbiamo diverse Jaguar, diverse BMW, diverse Audi a disposizione, e lo si fa in maniera molto semplice e intuitiva: si scarica l'app Pop Move, si cerca la macchina che si preferisce, ovviamente sulla mappa dove sono geolocalizzate le macchine, si prenota la macchina, una volta in prossimità della vettura si apre attraverso il telefono, si prende la macchina e si inizia il noleggio. E quindi questo ricorda molto il car sharing tradizionale. Ecco, voi avete usato come area di test un'area particolarmente difficile, non la tradizionale Milano, che è la capitale del car sharing, ma Roma. Come è andata? Roma ci ha dato dei risultati sorprendenti. E abbiamo deciso di iniziare da Roma principalmente perché è sempre stata considerata la città più difficile, quella che ha presentato più difficoltà per tutti gli operatori di mobilità condivisa, e volevamo fare un'area test che partisse e ci evidenziasse tutte quelle che potevano essere le problematiche, dagli utilizzi sbagliati delle macchine all'incuria dell'utilizzo. Devo essere sincero, siamo estremamente soddisfatti dei comportamenti dei romani, perché l'area test, che ormai dura da 3 mesi, ci ha dato solo risultati positivi, a partire dall'occupazione della flotta. In questo momento abbiamo circa 150 macchine sulla città e abbiamo toccato anche punte di occupazione dell'85% dell'intera flotta, ma anche e soprattutto per il modo in cui queste macchine sono state trattate. Dobbiamo dire che non abbiamo avuto atti vandalici, le macchine sono state ricondizionate in maniera corretta. Lei ha parlato di persone che usano l'auto e persone che la mettono a disposizione, perché questa è un'altra grande novità di questo servizio. In pratica i privati cittadini mettono a disposizione la loro auto nel momento in cui non la utilizzano, è così? Esattamente, Pop Move nasce con una duplice funzione: da un lato, come stavamo spiegando finora, mette a disposizione il maggior numero di auto possibili per i cittadini che decidono di non avere un'auto e di utilizzare solo l'auto che vogliono quando vogliono; dall'altro consente a chi decide di avere un'auto sotto la formula del noleggio a lungo termine e rimettere la propria autovettura a disposizione su questa applicazione, e anche qui è molto semplice: basta inserire la targa, descrivere le caratteristiche della vettura, inserire i parametri, quindi il tempo di messa in disponibilità dell'auto e il luogo di riconsegna di quest'auto, e il gioco è fatto. E soprattutto c'è un grande vantaggio: chi mette a disposizione l'auto ricaverà il 70% del ricavato del viaggio dell'automobile. Questo vuol dire che in un lasso temporale che va tra i 7 e i 10 giorni di messa a disposizione dell'auto, addirittura si riesce a non pagare più la rata di noleggio e quindi ad avere la macchina gratuita. Quindi, praticamente. Ci dia qualche numero su quello che è successo a Roma in questi ultimi 3 mesi. A Roma, come dicevo, è stato un crescendo da settembre a dicembre di utilizzo. Siamo passati da un utilizzo medio di circa il 40% a settembre fino ad arrivare, come dicevo prima, a picchi anche dell'85%, comunque siamo al 75% di occupazione della flotta. Devo dire che un dato che ci ha fatto sorridere è che le Jaguar, per esempio, vengono utilizzate molto da ragazzi under 30 per una tempistica di 2-3 ore nelle fasce serali, mentre la media statistica di utilizzo che abbiamo registrato è più di un giorno, con un target che va intorno ai 40 anni di età. Chiudiamo con i costi di questi servizi. I costi variano da costo minuto a costo, chiaramente, chiamiamolo mensile, anche se il limite sono 29 giorni, con alcune fasce, quindi più si utilizza la macchina più in realtà il tariffario scende, ed è un tariffario che è fatto ad hoc sulle categorie di macchine. Quindi faccio esempi concreti: una City Car costa 0,18 a minuto rispetto a 0,20/0,25 degli altri servizi presenti oggi sulla città, e arriva a costare 40 euro giornalieri, oppure a costare 80 euro nel weekend per 3 giorni, oppure a 150-160 mensili. Quindi più si utilizza la macchina, ovviamente, più il costo orario diminuisce. Esatto. La peculiarità è che entro gli 80 km e le 7 ore nell'offerta tariffaria è inclusa la benzina. Scavallati questi due parametri, invece si passa a un concetto di costo della macchina più rifornimento della vettura, quindi la vettura deve essere riconsegnata o come avviene nell'orologio tradizionale, allo stesso livello di benzina di quando si è presa. Certo. Bene, termina qui questa prima parte di A Strade Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Alberto Cassoni, amministratore delegato di Pop Move. Ci risentiamo tra pochi minuti, attenzione, per parlare di Alfa Romeo e delle novità per il 2020. A tra poco. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. Strade e motori. Seconda parte di Strade e motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Continuiamo a parlare di auto e continuiamo a parlare di un brand italiano che è Alfa Romeo. Presentate diverse settimane fa, a fine dicembre, le novità che riguardano il 2020, in particolare per Giulia e Stelvio. Ne parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Fabio Migliavacca, responsabile Regione EMEA per il brand del marketing. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera Massimo. Allora, dicevamo, novità che riguardano in casa Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con un restyling che in realtà ha portato diverse modifiche a queste due vetture. Quali sono le principali? Abbiamo lavorato principalmente su degli aspetti che ritenevamo fossero importanti per i nostri clienti e per mantenere aggiornata la nostra gamma. Quindi abbiamo lavorato per migliorare l'esperienza di guida a bordo della nostra auto, sia migliorando ulteriormente lo sterzo, sia migliorando l'insonorizzazione, introducendo anche i vetri laminati. Quindi il comfort a bordo ne ha risentito positivamente. Abbiamo lavorato sulla tecnologia, quindi abbiamo introdotto, rifacendo totalmente il mobiletto centrale e parti della plancia, il touchscreen da 8.8 pollici, che ora si può comandare sia touch sia attraverso il rotary sul tunnel, con tutte nuove funzionalità, tra cui la connettività. Quindi ci sono tutta una serie di servizi connessi che possono controllare la vettura da remoto e rendere la guida ancora più piacevole. In più abbiamo introdotto gli ADAS, cioè tutta quella che è l'assistenza alla guida, rendendo la guida autonoma di livello 2, grazie all'Active Blind Spot, al Driver Attention Assist e al Traffic Sign Recognition, e a tutta una serie di altri contenuti che aiutano la guida proprio nei momenti più noiosi. E poi infine abbiamo introdotto una strategia di gamma totalmente nuova, con dei trim level, quindi delle versioni che richiamano e strizzano l'occhio al passato di Romeo, con la nuova Sprint e la nuova P, che si aggiungono alla Veloce e alla Super, che erano già in gamma precedentemente. Fra un po' parleremo anche degli ADAS e di come questi interagiscono con il piacere di guida di Alfa Romeo, però veniamo prima un po' ai dati di mercato e alle vostre aspettative. Si è chiuso da pochi giorni il 2019, si apre un anno, il 2020, particolarmente difficile per le case costruttrici. Tutti noi giornalisti parliamo ormai da mesi di deserto dei profitti, quindi sarà sicuramente un anno terribile per questo settore. Lo affrontate con quali aspettative? Quest'anno effettivamente sarà un anno particolarmente difficile per tutte le case automobilistiche. Noi in ogni caso siamo convinti che il prodotto sia ancora molto valido, a maggior ragione adesso che abbiamo fatto tutta questa serie di affinamenti e di aggiornamenti. La macchina è evoluta ed è assolutamente agli onori del mercato, sia Giulia che Stelvio, e quindi contiamo di sostenere quelli che sono stati degli ottimi risultati degli ultimi mesi del 2019 e di continuare a crescere sul 2020 con Giulia e Stelvio. Di fatto Giulia e Stelvio hanno ripreso del mercato, una parte di mercato che Alfa aveva perso, quindi è tutta conquista quella che stiamo facendo su clienti che ormai non potevano più trovare un Alfa Romeo nel segmento D, sia che fosse una berlina, sia che fosse un SUV di dimensioni medie. Quindi siamo convinti che il 2020 sia comunque un anno positivo per Alfa Romeo e che continui in questo percorso di crescita. Come si è chiuso invece il 2019? Quali sono stati i risultati di Alfa Romeo? Il 2019 si è chiuso piuttosto bene, nel senso che è stato un anno di transizione, è stato un anno che comunque già prefigurava il 2020 nella sua parte più dura per le case automobilistiche, però negli ultimi mesi si è visto una ripresa per Alfa Romeo. Abbiamo attuato queste azioni sulla rete, sulla gamma e anche in termini di comunicazione. Abbiamo cercato di far passare il messaggio che Alfa non è solo più una nicchia sportiva per dei puristi della guida che guardano solo esclusivamente all'handling, ma anche ad altri aspetti più fruibili della vettura. Torniamo a proposito di vettura alle nuove Giulia e Stelvio. Parlavamo prima di nuovi sistemi ADAS che devono in qualche modo interagire con quella che è invece, anche se ha appena detto che volete far credere il contrario, la sportività dell'Alfa Romeo, che è quindi la sua caratteristica distintiva. Non voglio far credere il contrario, voglio in realtà far evolvere il marchio, nel senso che assolutamente non andiamo a smentire quelli che sono i punti chiave di Alfa Romeo. La guida rimane assolutamente al top del mercato, come ci riconoscono anche i nostri competitor e come ci riconoscono anche le riviste straniere più quotate. Noi vogliamo continuare ad avere un handling che rimane il riferimento, ma dare al cliente anche la possibilità di godere della vettura in quei momenti, come in questo caso io sono bloccato in coda, dove la guida non è proprio la parte più piacevole che uno possa avere. Quindi la guida autonoma dovrebbe cercare di limitare quella che è la noiosità in certe condizioni di guida, quindi in condizioni di traffico elevato uno lascia che la macchina ti aiuti a gestire situazioni di traffico, di potenziale pericolo, e quindi sia più sicura, ma allo stesso tempo tu possa comunque, quando vuoi, godere della guida, della precisione di guida, del feeling di sterzo dell'Alfa Romeo, poter comunque disinserire quello che c'è da disinserire della guida autonoma e poter godere di queste nostre vetture. Certo. Quando sarà disponibile nei concessionari questa Mai 2020, questa nuova versione Mai 2020 di Giulia e di Stelvio? La nuova gamma sarà disponibile a partire da gennaio, quindi in questi giorni stiamo facendo in modo che tutta la rete sia coperta e abbia le vetture disponibili per farle vedere, per farle provare, perché comunque provare un Alfa Romeo vuol dire apprezzare al meglio quello che può dare la macchina. Ora, già salendo a bordo si percepisce il salto di qualità e l'evoluzione che ha subito sia Giulia che Stelvio, però da gennaio tutta la rete potrà accogliere i clienti. Ecco, a proposito di clienti, mi ha molto incuriosito quanto ha detto lei poco fa, e cioè che state cercando di allargare un po' questo target, quindi non solo appassionati, non solo passione legata a questa auto e alle sue caratteristiche sportive, ma anche appunto doti di sicurezza e di comfort. Qual è il vostro target ideale quindi in questo momento? Qual è il cliente di Alfa Romeo? Dicevo, stiamo cercando di evolvere il cliente mantenendo fede a quelli che sono i valori di Alfa Romeo, in modo che anche gli alfisti, gli amanti ancora della trazione posteriore, che è prodotta con questa piattaforma specifica chiamata Giorgio per Giulia e Stelvio, possano continuare ad apprezzare i valori del marchio, ma allargarla proprio a una cliente più ampia, quindi anche a donne e persone più giovani che possono apprezzare Alfa Romeo anche per altri valori che non sono solo la sportività e il comportamento su strada. In ogni caso sono dei clienti che devono apprezzare l'auto non solo come mezzo di trasporto che porta da A a B, ma come un qualcosa di pregiato e che ti accompagna nella quotidianità per poter apprezzare il dettaglio, la cura dei materiali o comunque l'attenzione che c'è allo sviluppo della vettura. Certo, e noi continueremo sicuramente a seguire nel tempo l'evoluzione di queste vetture. Per ora termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Fabio Migliavacca, responsabile marketing per Regione EMEA di Alfa Romeo. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.